24 mattino. Buona giornata da Simone Spezia, bentornati a 24 mattino, al momento della lettura dei giornali. Ci sarò ancora io al microfono solo per oggi, poi domani torna Alessandro Milan. Lettura dei giornali che non può che cominciare naturalmente dall'incontro tra Angela Merkel e Matteo Renzi. In realtà appunto a Berlino c'era una folta delegazione di governo, non c'era solamente il Presidente del Consiglio, ma naturalmente, come ovvio, l'attenzione si è concentrata su di lui. Il terzo Presidente del Consiglio che Angela Merkel vede in 2 anni, e quindi questo naturalmente incide, diciamo, sul giudizio generale della cancelliera. In linea di massima gran parte dei principali quotidiani dà un'interpretazione positiva a quello che è successo. Vediamo alcuni dei titoli principali. Partiamo dal Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che, tra le altre cose, oggi si rinnova, poi ne parleremo più avanti, insomma, l'abbiamo già accennato ieri con Mauro Meazza, è un, come da titolo del direttore Roberto Napoletano, un sistema multimediale integrato, siamo noi, è il titolo dell'editoriale. C'è una, chiamiamola una sorta di divisione in quattro, che però è un'unione in quattro: c'è il giornale dell'attualità, il giornale dell'economia reale all'interno, che è imprese e territori, finanza e mercati, e poi norme e tributi, che sarà appunto a parte, una sorta di terzo dorso del quotidiano. Ne parleremo più avanti con Mauro Meazza. Intanto restiamo sul tema Renzi-Merkel. Positiva la riforma Renzi-Merkel, positiva la riforma del lavoro. E questo è proprio il titolo del Sole 24 Ore. Il Premier dice: ora crescita, cauta apertura della cancelliera. La lettura della Repubblica: Merkel promuove Renzi. Quella del Corriere della Sera: Merkel, elogio senza sconti, quindi un po' più freddo. Renzi illustra le riforme, promette: rispetterò i vincoli. Renzi incassa il sì della Merkel, scrive il Messaggero. Merkel, mi piace Renzi, è il titolo del giorno. Libero: Merkel colpita, ma Matteo ha sbagliato i conti. In ginocchio da te, il titolo della Padania. Renzi impressiona la Merkel, ma si vende la porta aerei, e si fa riferimento alla Garibaldi. Questo invece è il titolo del Fatto Quotidiano. Merkel Renzi, via libera, il titolo dell'Unità. Infine chiudiamo con La Stampa: Merkel promuove Renzi. Questo il quadro dei titoli principali, ma andiamo a vedere anche nel dettaglio un po' come è andata tutta questa vicenda. Inizierei proprio appunto dal Sole 24 Ore, che riporta un commento in prima pagina a firma di Carlo Bastasin. Il titolo è: riforme, il pegno del consenso. Scrive, tra le altre cose, Bastasin, che non escluso che lo scambio tra riforme e flessibilità richieda un accordo specifico, forse addirittura un contratto con la Commissione europea. L'attenzione italiana è catalizzata dal totem del disavanzo fiscale, del tabù del 3%, come se danzassimo intorno ad un idolo maligno. Ma chi conosce i documenti dei consigli europei sa invece che non è in atto una rottura di continuità nelle politiche di bilancio dell'Italia degli ultimi 3 anni. E nota, secondo me, Bastasin una cosa piuttosto interessante, insomma, di fronte a quest'ondata di novità che abbiamo visto. Non c'è stata, su tasse o deficit, una staffetta tra Maratoneti, Monti e Letta e un giovane centometrista. Tutti i preannunci fiscali con cui Renzi si è presentato a Berlino, Merkel infatti li aveva già sentiti dai suoi predecessori. L'utilizzo del margine di disavanzo entro il 3% era stato proposto da Monti esattamente un anno fa, non appena le regole lo avevano consentito, quando cioè l'Italia era uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo e come è previsto dal cosiddetto braccio preventivo del patto di stabilità. L'ex ministro Saccomanni stava per attivare i crediti della pubblica amministrazione prima che cadesse il governo Letta. Non esiste dunque un vero cambio di strategia fiscale, e questa coerenza del paese è positiva. È interessante in realtà quello che nota dal punto di vista politico Bastasin. Poi ci torneremo, perché sui giornali ci sono molti approfondimenti sul tema del voto euroscettico, cioè Merkel, in sostanza Renzi sarebbe andato da Merkel dicendo a Merkel: occhio, perché se non ci lasciate margini per uscire da questo ciclo dell'austerità, il voto euroscettico alle elezioni sarà molto potente. Il punto è che anche Merkel ha i suoi euroscettici in casa, che però hanno delle idee decisamente diverse. Ci torneremo più avanti, insomma, dagli euroscettici italiani e del cosiddetto Sud Europa. Interessante prendere in questo caso dalla Repubblica, andare a prendere l'analisi, la firma Federico Fubini, e adesso ve la recupero di rado. Angela Merkel improvvisa, neanche stavolta l'ha fatto, scrive Fubini. Quando Matteo Renzi è entrato a Palazzo Chigi, la cancelliera si è fatta costruire un dossier con le informazioni meno segrete che esistano sul suo conto, una collezione di cose che ha detto a fronte di una collezione di cose che ha fatto. E non serviva un dottore in fisica come la leader tedesca per vedere che forse fatalmente per un politico le due serie non coincidono. Il test preliminare condotto a Berlino ha permesso dunque di concludere che la parola di Renzi non sempre scritta su marmo, dalle promesse su Twitter a Letta, Enrico stai sereno, al mai a Palazzo Chigi senza elezioni. L'ex sindaco può prendere decisioni diverse da quelle che annuncia. A Merkel interessa saperlo perché prima di promettere di recente il rispetto di Maastricht sul rapporto deficit-PIL, Renzi diceva qualcos'altro. Sosteneva che quella regola è superata, che fu scritta quando non c'era ancora Google e la Cina era un paese arretrato. Merkel invece ha fretta di capire se può fidarsi del suo nuovo partner. Metterlo alla prova è il minimo che i tedeschi possano fare per adesso. Quello che è sfilato davanti alla cancelliera ieri è il terzo presidente del Consiglio italiano in 2 anni. A nome di un paese con il terzo debito al mondo, un'economia crollata in questi anni più di qualunque altra, meno la Grecia naturalmente. Allora, è interessante, qua iniziamo ad entrare sul tema degli euroscettici. Innanzitutto Fubini scrive che Renzi torna al suo tour europeo con un'apertura di credito alla sua spinta innovatrice, ma entro un corridoio ben delimitato di finanza pubblica, quindi diciamo di aperture vere e proprie dal punto di vista della possibilità di sforamento dei conti non è che ce ne sia un granché. Cosa dice? Il suo problema, il problema di Merkel, è che gli anti-euro tedeschi di Alternative für Deutschland ormai sono già saliti al 7,5 nei sondaggi, tutti voti in uscita della CDU-CSU di Merkel stessa, e possono salire ancora se i giornali tedeschi continuano a scrivere che Renzi è contro il rigore, come ha fatto ieri la Welt. Se dunque Merkel deve scegliere tra arginare Grillo o la Lega naturalmente, o quelli di Alternative, non avrà dubbi, curerà gli anti-euro di casa propria, anche a costo di arginare di passaggio Matteo Renzi in persona. Questa la lettura dunque di Federico Fubini sulla Repubblica. Per quanto riguarda invece l'Unità, dall'Unità peschiamo questa intervista a Jean-Paul Fitoussi, politologo ed economista francese. Il titolo è: il Premier ha avuto il coraggio di dire che l'austerità a uccidere la crescita. Questo è il titolo. Leggiamo un passaggio breve. Va dato atto al giovane primo ministro italiano di aver avuto il coraggio di esplicitare anche in importanti vertici europei una verità che si è fatta strada in questi anni di crisi tra macerie sociali e crescenti diseguaglianze. L'Europa che intende davvero puntare in alto ed uscire dalla recessione deve farla finita con le politiche di austerità. Attenzione, perché di qui ai prossimi 2 mesi, insomma prima delle elezioni europee, di queste frasi, per quanto giuste, per quanto azzeccate, le sentiremo pronunciare tantissime volte e praticamente immagino più o meno da tutte le forze politiche. Qual è l'altro commento che volevamo pescare? Andiamo a vedere. È quello del Corriere della Sera, perché qua entriamo nel dettaglio delle politiche da mettere in atto da parte del governo, e i consueti editorialisti economici del Corriere della Sera, Alberto Resina e Francesco Giavazzi, parlano proprio di questo. Non parlano tanto dell'incontro con Merkel quanto delle riforme prospettate dell'esecutivo. Iniziano a Resina e Giavazzi facendo un paragone ciclistico: se Matteo Renzi fosse un ciclista giudicheremmo il suo inizio in questo questo modo. È partito, si impegna, pedala con entusiasmo, ma per ora è in pianura. Le salite devono ancora arrivare. Non è chiaro che cosa riuscirà a fare, perché con le montagne il ciclista Renzi non si è ancora cimentato. E in questa corsa ci saranno tante salite e avversari difficili, scrivono. La salita arriverà quando si dovrà decidere se abolire l'articolo 18 per i nuovi assunti, scrivono Alesina e Giavazzi. Una questione, notano, che creerà problemi soprattutto con la CGIL. La CGIL si opporrà ad una vera riforma del mercato del lavoro, che pure consentirebbe a tanti giovani di uscire dall'incubo dei contratti a tempo determinato. Evidentemente, aggiungono, i giovani interessano poco alla CGIL, i cui iscritti sono per circa una metà pensionati. Seconda salita, come finanziare la riduzione delle imposte sul lavoro e sui redditi più bassi, il sussidio di disoccupazione universale. Riuscirà Renzi a imporre tagli di spesa adeguati? Per ora non è chiaro, dicono Alesina e Giavazzi. Eppure, sul tavolo c'è il piano di Cottarelli, il famoso piano di Cottarelli per la revisione della spesa. Ci sono molti dati interessanti e molte storie interessanti che arrivano in queste ore su questi temi, a partire dal tema che, sul quale titolava il Fatto Quotidiano. Avete visto, si vende la porta aerei, ma non è quello il cuore. Ci sono dei dati interessanti oggi sul Sole 24 Ore che ci illustrano bene la situazione dei dirigenti pubblici italiani. Ne parliamo dopo la pausa. 24 mattino. Prima di venire ai dettagli della spending review, ci sono un altro paio di cose dell'incontro tra Merkel e Renzi che vi voglio citare. Innanzitutto c'è un retroscena della Stampa firmato da Fabio Martini, che racconta appunto il retroscena dell'incontro, come sarebbe andato al di là della formalità che c'è dopo nella conferenza stampa. E la cosa interessante è che ci dà una notizia, ossia che Matteo Renzi avrebbe chiesto la guida della NATO per Enrico Letta. Scrive Fabio Martini che a Berlino è circolata una voce: Matteo Renzi starebbe trattando la nomina di Enrico Letta segretario generale della NATO. L'opportunità si è creata anche perché il candidato italiano Franco Frattini non vantava nel curriculum un incarico da primo ministro. Per questo la scelta è caduta sull'ex premier norvegese Jens Stoltenberg. La casella si può riaprire a favore di Letta? Improbabile, ma è significativo che Letta abbia dato l'assenso alla trattativa e che l'Italia vi si stia impegnando, il che potrebbe essere naturalmente anche un segnale di disgelo tra i due, tra Matteo Renzi ed Enrico Letta. Le ultime letture che vi voglio dare su questa vicenda sono la prima del Buongiorno di Massimo Gramellini. Rimaniamo sulla Stampa, che la prende un po' di pancia naturalmente. Il titolo è Angela in Love. Le matrone tedesche hanno un debole per gli italiani impuniti, scrive Gramellini. Secoli di storie e chilometri di lungomare romagnolo sono lì a testimoniarlo. Angela aveva scartato tutti gli altri pretendenti, quel Silvio Greve liscio come un tapirulane troppo anziano, il professor Mario, algido, secchione, più noioso di un tedesco, e il composto Enrico, un bravo ragazzo, come lo definì lei, con un'espressione che sulle labbra di una donna non è mai sintomo di passione. Ma alla fine è arrivato Matt, il principe azzurro e simpaticamente un po' buzzurro, con l'energia della giovinezza e il bottone del cappotto abbottonato zoppo che stimola tenerezze materne. Ah sì, qua grande concentrarsi delle foto sui giornali su questo bottone di Matteo Renzi abbottonato male. E vabbè, ad Angela sono crollate le difese, scrive Gramellini. Si è tolta lo spread dagli occhi e lo ha guardato come la figlia di un pastore tedesco può guardare una giovane marmotta italiana. Lì per lì, chiude Gramellini, Angela ha pensato di alzarci il differenziale deficit PIL dal 3 al 30%, ma è stato solo un attimo. Poi la sua moralità calvinista ha prevalso. Fino a quando? Così la lettura di Massimo Gramellini. Un po' più dura quella di Marcello Veneziani, prima pagina del giornale. L'alunno Matteo Renzi, uno scolaro fortunato, è stato interrogato dalla maestra Merkel alla vigilia della campagna elettorale e poi del semestre italiano alla guida dell'Europa. Queste sono le prime lezioni dopo le mazzate europee e la conseguente diffusione di una forte e variegata protesta antieuropea e anti-euro. Tra l'altro ci sono dei dati interessanti su questo e ne vedremo se avremo il tempo di parlarne. però vengono proprio dal giornale, che dedica un titolo a centropagina: il boom degli anti-euro sono in testa nei sondaggi. Si parla della leader del Fronte Nazionale francese Marine Le Pen, il leader dell'UKIP inglese, l'austriaco Heinz Christian Strache dell'FPO. Dice ancora Veneziani: i governi temono i populismi e devono disinnescarli alleviando l'arcigno rigore, le misure sacrificali, se non vogliono essere spazzati via o duramente mutilati. Per l'Italia, oltre la paura che crescano le quattro opposizioni, c'è pure la prospettiva della nostra leadership europea. Che si fa? Cacciate o mettete dietro la lavagna, come dice lo scolaro Matteo, il paese che dovrà guidare l'Europa fino alla fine dell'anno? No, che non si può. E questo agevola i compiti a casa di Renzi, col permesso dei prof. Spending review, ossia revisione della spesa. Guardate, oggi ci sono tante cose sui quotidiani. Il Messaggero parla di 85.000 tagli nella pubblica amministrazione, e però il dato che mi ha veramente impressionato è quello riportato dal Sole 24 Ore e contenuto nella proposta per una revisione della spesa pubblica firmata da Cottarelli. E qual è? È il livello degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. Di pubblica amministrazione, di burocrati abbiamo parlato molto ieri alle 8:15. Ebbene, vediamo un po' quanto sono pagati. C'è una tabella che è illustrativa, perché il rapporto tra le retribuzioni lorde dei dirigenti pubblici e il reddito pro capite nei principali paesi dell'area euro. Da tenere presente naturalmente che ci sono delle differenze di tasse notevoli, per carità, su questo è ovvio, insomma, parliamone, però le tasse sono molto alte sui redditi anche in Germania e in Francia. E qual è il rapporto tra retribuzioni dei dirigenti pubblici e reddito pro capite? In Germania del 4 è al 4,97, cioè 4,97 volte il reddito pro capite. In Francia 6,44 volte il reddito pro capite. Parliamo solo dei dirigenti apicali, ossia i massimi dirigenti dei ministeri e delle pubbliche amministrazioni. A fronte di una Germania 4,97 volte, Francia 6,44, l'Italia 12,63 volte il reddito pro capite. Quindi c'è evidentemente una dimensione degli stipendi pubblici che è sballata. È sballata anche per quanto riguarda i dirigenti di prima fascia: 10,17 volte contro i 4,27 della Germania e 5,21 della Francia. E poi invece praticamente si parifica per quando si arriva ai dirigenti di seconda fascia: 4,69 contro i 4,44 della Francia e i 3,48 della Germania. Un dato interessante all'attenzione dell'esecutivo, come tutte le norme appunto sulla pubblica amministrazione, così come l'ipotesi di altri tagli. C'è un'intervista di Beatrice Lorenzin alla Repubblica: ricoveri, ticket acquisti, la sanità risparmierà più di 3 miliardi, lotta agli sprechi per investire in strutture e tecnologia. Così Beatrice Lorenzin, intervistata dalla Repubblica. Allora, altre cose che vogliamo tirar fuori, ecco, sempre a proposito di taglio della spesa, c'è il titolo del Fatto Quotidiano: Renzi impressiona la Merkel ma si vende la porta aerei. La cancelliera usa per il premier le stesse parole riservate a Monti: non si impunta su deficit e coperture ma chiede riforme, un governo che duri. Palazzo Chigi dice: i soldi servono per la crescita, taglia la difesa, addio alla porta aerei Garibaldi, che tra l'altro c'ha una trentina di anni. Il Fatto Quotidiano, segnalo, ritorna, poi insomma un tema come vi avevo detto ieri sarebbe ritornato, insomma, la guerra all'interno della Procura di Milano, l'atto di accusa al CSM del PM Robledo contro il suo capo Bruti, liberati, dove si parla di gestione anomala dei fascicoli, dal caso SEA passando per Mediobanca, Rubi e gli scandali Formigoni. E un'ultima indagine blindatissima, continua a circolare questa cosa di un'indagine blindatissima della quale nessuno al momento sa niente, della quale non abbiamo dettagli, e che però insomma prima o poi verrà fuori, e se è così blindata evidentemente È qualcosa di grosso, è qualcosa che minaccia evidentemente di fare sfaceli. Mauro Meazza, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Allora, oggi un giornale nuovo, diverso, insomma, intendo, sempre, ci no? Sono, ci sono un po' di novità effettivamente oggi per il Sole 24 Ore, innanzitutto questa scansione un po' diversa, quindi... Soprattutto sai che noi sempre con Alessandro scherziamo con Radio Fisco, ecco oggi davvero devo cominciare da Radio Fisco perché come sai le pagine di Norme e Tributi aumentano e diventano proprio un dorso, cioè un inserto a parte, insomma in fondo al giornale. Quindi sarà, mentre le pagine di imprese e territori sono collocate nella prima parte del giornale, insomma una piccola rivoluzione per chi segue abitualmente questi temi e quindi così è abituato a cercare nelle ultime pagine del primo dorso le questioni fiscali, previdenziali, eccetera, eccetera. Questo primo aspetto, insomma, quattro giornali in uno, scriviamo oggi, ed è uno. Poi abbiamo anche questo dizionario condominio, come sai, primo dizionario degli otto che presenteremo in queste settimane e che però vorrei spiegare perché facciamo questi dizionari. In realtà festeggiamo al primo di aprile i 30 anni dell'Esperto Risponde, che è una rubrica effettivamente storica del Sole 24 Ore, rubrica di consulenza di risposte ai lettori. E devi sapere che in questi 30 anni di servizio ai lettori la questione che è stata più richiesta in assoluto è stata proprio il condominio. Cioè, evidentemente sul condominio abbiamo sempre qualcosa da chiedere. Perché ci piace litigare, questo è. Ma ho il sospetto che sì, effettivamente molte delle questioni siano connesse ai litigi. Però insomma, com'è o come non è, noi abbiamo provato a mettere insieme un dizionario, abbiamo presentato questo dizionario oggi e l'idea è che insomma magari conoscendo un po' meglio le regole, che non sono tutte semplicissime, si litighi anche un po' meno. Poi non possiamo garantire sulla tranquillità delle assemblee di condominio, sono notoriamente un posto pericoloso. Naturalmente. Senti, e poi al di là delle questioni sulla spending review delle quali abbiamo parlato, cioè questi dati impressionanti sui dirigenti della pubblica amministrazione, c'è il vero grande tema è questa delega fiscale che adesso arriva, tanto stiamo parlando di revisione delle tasse, di semplificazione eccetera eccetera, in realtà là c'è dentro tutto sostanzialmente. Sì, qui un po' bisognerebbe, sai, se mi concedi la celia, qui tra il dire e il fare c'è di mezzo l'attuare e quindi l'attuare non è semplicissimo, lo spieghiamo oggi, c'è un bel lavoro di Giorgio Costa che ha messo in fila un po' tutto il cronogramma. Adesso vedremo insomma se nel giro di due mesi cominciamo a rispettare i vari termini. L'idea è che di qui a un anno il fisco cambi radicalmente, quindi revisione degli sconti, revisione del catasto, questa a onor del vero forse ci vorrà un po' di più con il passaggio, come sapete, i metri quadri, poi altre misure ancora, un diverso trattamento nelle liti, nel contenzioso, insomma il tutto dovrebbe succedere entro un anno. Noi abbiamo provato oggi a mettere in fila proprio nella prima pagina del nuovo inserto Norme e Tributi se insomma da cosa si parte. Si partirebbe dagli sconti, vediamo se poi il tutto sarà rispettato, perché appunto il programmino non è davvero di quelli da smisurata ambizione, per citare persona a noi nota, insomma. Senti Mauro, dai, ti saluto, anzi ci saluti tu. Vi saluto io, posso salutarvi con l'abituale consueto grido. Vai. Va bene, allora traffico 24 mattino. E veniamo a due grane per l'esecutivo, una riportata dal Fatto Quotidiano e l'altra riportata invece da Libero, che su questo sta facendo una battaglia. Allora, il Fatto Quotidiano, il titolo in prima pagina è questo: spese inutili, due punti, blitz della finanza nell'università della ministra. Dopo il dossier della Corte dei Conti sui 525.000 euro contestati, la Guardia di Finanza nell'Ateneo di cui la Giannini, che è il ministro dell'istruzione, è stata rettore fino al 2013. Racconta Alessandro Ferrucci, inviato a Perugia, che alle 8:30 di ieri mattina la campanella suona in anticipo all'Università per Stranieri di Perugia. Al portone c'è la Guardia di Finanza. Drin drin, siamo qui per acquistare i documenti rispetto all'indagine della Corte dei Conti sulla gestione dell'ex rettore Stefania Giannini, attualmente ministro dell'istruzione. Ore 19 di ieri sera, le fiamme gialle non sono ancora uscite dall'Ateneo Umbro, sono in sede per cercare, spulciare, fotocopiare, domandare, interrogare i protagonisti della vicenda, ma non possiamo parlare, rispondono con tono preoccupato e stupito dalla direzione. Cosa? Sì, non sappiamo ancora per quanto andranno avanti, perché la faccenda è lunga, costosa e vale 525.000 euro pubblici. Al centro della storia non ci sono nomine, magari nuove cattedre, auto blu o altro connesso all'ancestrale potere nostrano. Al contrario, il tutto nasce dalla più classica delle passioni italiane: una scuola di cucina, un ristorante per docenti e studenti e un centro di attività ricreative. Progetti passati per la gestione di un locale da 78.000 euro più IVA l'anno, senza contare le bollette di luce, acqua e spazzature. Siamo nel 2008. La Giannini ne parlava come della meraviglia assoluta, la nuova frontiera, il Made in Italy ricreato in casa. Quindi accordi e strette di mano con l'elite locale, eccetera, eccetera. Eppure i problemi compaiono immediatamente, il subconduttore non paga, iniziano le cause, le accuse, le urla, le scenate dentro la presidenza tra la stessa Giannini e il locatario. Poi silenzi, nuove telefonate, inevitabili bollette da pagare. Quindi c'è evidentemente la finanza che entra nell'università guidata fino a poco fa dal ministro dell'istruzione Giannini, e vedremo che cosa emergerà da questa inchiesta. L'altra vicenda è la casa di Matteo Renzi. La vicenda qual è? L'ex sindaco di Firenze, abitato e attuale presidente del Consiglio, abitato dal marzo 2011 fino a pochi mesi fa in un attico di 5 piani in via Alfani, a poca distanza da Palazzo Vecchio, dove ha sede il comune. A pagare l'affitto dell'immobile, scrive Libero, è Marco Carrai, che ha deciso di ospitare il sindaco. Carrai è presidente dell'aeroporto di Firenze, amministratore di una società partecipata dal comune e azionista della CNT Cross Media, che sta facendo incetta di contratti nel settore dei servizi culturali. Il locatore, cioè il proprietario dell'immobile, Alessandro Dini, consigliere d'amministrazione della Rototype, il cui sito internet è stato curato dalla Dot Media, l'agenzia di comunicazione che ha gestito le campagne elettorali dell'ex sindaco. Ancora dunque una vicenda della casa sulla quale Libero, che ne ha parlato nei giorni scorsi e ha aperto la vicenda, è voluto tornare perché ieri su questa vicenda si è lanciato anche Beppe Grillo, chiedendo su Twitter al Presidente del Consiglio di rispondere. Grillo sta con Libero, questo è il titolo del quotidiano. Renzi spiega la casa, anche il leader Movimento 5 Stelle vuole sapere perché da sindaco il premier si è fatto pagare l'affitto da un imprenditore in affari col comune. La Libera Stampa, aperte virgolette, la mette tra virgolette Libero, invece non è interessata. Queste due grane o due preoccupazioni per il governo. Vogliamo uscire un po' in quest'ultima parte dalla politica. Abbiamo parlato poco delle questioni che riguardano l'Ucraina e me ne scuso, ma ci torneremo alle 8:15. Tra l'altro avremo anche il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova, ne parleremo con analisti, con un europarlamentare, per cercare di capire la situazione e anche capire in tutta sincerità quanto siamo vicini, se ne è parlato molto, ad una nuova guerra fredda o addirittura ad una nuova guerra. C'è una bella storia, devo dire la verità, veramente bella, che arriva dal secolo XIX ed è un caso giudiziario. È la vittoria di Bibi, la pakistana di Ventimiglia che difende le figlie dal padre padrone. Scrivono Paolo Isaia e Patrizia Mazzarello, che firmano il pezzo. Oggi per le mie figlie comincio una nuova vita, è quello che volevo. Bibi Gulsham, 48 anni, prima donna pakistana in Liguria ad ottenere un regime di protezione speciale contro l'integralismo e la violenza dell'ex marito e dei suoi fratelli, ieri ha vinto la sua battaglia ed è soddisfatta. Quando dopo un processo durato ben 6 anni il giudice Paolo Luppi, che ha avuto la mano più pesante rispetto alle stesse richieste del PM, ha condannato l'ex marito e il fratello di lui ad 1 anno e 2 mesi, a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Bibi però sa che potrebbe non essere finita, almeno per lei, perché se con la condanna dei loro persecutori le sue figlie, che oggi hanno 25, 17 e 9 anni, possono smettere di avere paura, di temere rappresaglie e tentativi di rapimento da parte di chi voleva impedire loro di andare a scuola e vivere all'occidentale, Bibi non esclude una vendetta da parte della famiglia dell'ex marito. Non adesso, ma magari un giorno me la faranno pagare, magari mi ammazzeranno. Questa la storia raccontata in prima pagina dal Secolo XIX. C'è un'altra vicenda molto interessante e che sicuramente farà discutere, che viene riportata dal Messaggero, ed è una sentenza che riguarda il divorzio. Potrebbe passare alla storia, scrive Silvia Barocci in questo pezzo che si intitola Divorzio Lampo grazie all'Europa, potrebbe passare alla storia come la prima coppia che in Italia ha ottenuto lo scioglimento immediato del matrimonio, senza aspettare i canonici 3 anni di separazione, senza attendere che le Camere approvino una norma sul divorzio breve che stenta a decollare. Marco e Maria, ingegnere italiano lui, 42enne spagnola senza lavoro lei, un cavillo per rifarsi una vita velocemente l'hanno trovato. E qual è questo cavillo? Si chiama Regolamento Europeo numero 1259. È entrato in vigore il 21 giugno del 2012, abbastanza recente per essere poco conosciuto dai matrimonialisti italiani. L'idea l'ha avuta Marco, spulciando su internet tutte le nuove norme, a tramutarla in ricorso, su cui nelle prossime settimane si pronuncerà il Tribunale Civile di Parma, è stato un giovane avvocato, Ugo Giovanbattista Cacciatore. Di fatto, che cosa fa questo regolamento europeo? Ci spiega Silvia Barocci. Apre la strada a una cooperazione rafforzata tra una 15 di stati membri, tra cui ci siamo anche noi evidentemente, sulla legge in materia matrimoniale. In caso di pieno accordo, infatti, è possibile chiedere al giudice italiano di applicare direttamente la legge dello stato straniero di uno dei due coniugi, e quindi la Spagna, dove c'è il divorzio breve, e quindi evidentemente si può applicare questa legge. Poi ci sono alcuni dati riportati dal Messaggero che insomma riguardano le percentuali di separazioni e divorzi ogni 1000 matrimoni, cresciute in maniera esponenziale dal 95 al 2001. Erano 80 divorzi ogni 1000 matrimoni nel 95, nel 2011 erano 182, quindi cresciuti moltissimo. Altra vicenda che arriva dalle aule di tribunale, ma aule di tribunale diverse, sono quelle del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. In questo caso si parla della vicenda delle grandi navi di Venezia, lo ricorderete, dopo la vicenda del Giglio si alzò un gran polverone, giustamente, perché le navi da crociera passano molto vicino a Venezia. E dunque, che cosa succede? Che fu fatta una legge e adesso il TAR l'ha sospesa. Gian Antonio Stella scrive: ha la precedenza il business della lobby croceristica, l'opinione pubblica mondiale scandalizzata dalle navi immense che solcano Venezia? Il TAR del Veneto ha risposto, dando torto al governo e sospendendo il contenimento del traffico e persino lo stop dal 2015 all'accesso delle navi superiori alle 96.000 tonnellate, come la Divina, lunga 2 volte Piazza San Marco. Certo, scrive Stella, ed è vero, la sospensiva del TAR è come l'ultima sigaretta del condannato, non si nega a nessuno, ma la decisione dei giudici, per quanto non inattesa, è stata accolta da una selva di proteste e molte altre minacce di sollevarne nei prossimi giorni. Lo stesso ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, l'aveva appena detto con brutale chiarezza: è inimmaginabile rassegnarsi al fatto che giganti di quelle dimensioni passino davanti a San Marco, non lo capisce nessuna persona con un minimo di buonsenso. Storia nella storia, che sarà da valutare anche questa. Nel frattempo erano partiti 2 ricorsi di Venezia Terminal Passeggeri, il gestore della marittima, di una decina di imprese portuali del comitato Cruise Venice, uno dei quali vedeva la partecipazione tra gli altri dell'avvocato Francesco Curato, marito della soprintendente veneziana Renata Codello, da sempre silente sulle gigantesche imbarcazioni. Allora, siamo in chiusura, adesso la linea al giornale radio, poi ci ritroviamo subito dopo e, esclusa dalla rassegna stampa, ma perché ci torneremo più avanti, parleremo dell'Ucraina.